Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Il sole era sorto a sud del contrafforte meridionale di Coring, che ancora incombeva al gran largo a sinistra, come una malefica scorta. Era divenuta per me una vista odiosissima. In nottata avevamo fatto rotta per tutti i rombi della bussola, orientando continuamente i pennoni verso ciò che temo fossero per lo più delle inesistenti bave di vento. Poi, giusto sul fare del giorno, prendemmo dritto a collo un vento teso, inspiegabile. Era un controsenso. Non si accordava né con la stagione, né con la secolare esperienza marinaresca conservata nei libri, né con l'aspetto del cielo. Lo si poteva attribuire solo ad un deliberato intento malevolo. Ci mandò a navigare a tutta velocità fuori rotta. E se fossimo stati in mare in viaggio di piacere, ci sarebbe sembrata una brezza deliziosa, con lo scintillio del mare ridestato, con il senso del moto e con l'insolita sensazione di fresco. Poi però, ad un tratto, la brezza, come sdegnosa di spingere più oltre l'increscioso scherzo, cadde e svanì completamente in meno di 5 minuti. La prua deviò verso il lato di sbandamento, il mare in bonaccia diventò lucido come una lastra di acciaio. Andai a basso, non con l'intenzione di riposare un poco, ma semplicemente perché in quel momento non reggevo più a quella vista. L'infaticabile Ransom era affaccendato nella saletta. Era consuetudine che la mattina mi facesse un rapportino privato sulle condizioni sanitarie. Si volse dalla credenza con il suo solito sguardo piacevole, quieto. Non un'ombra abbuiava la sua fronte intelligente. «Stamane ce n'è un bel po' che stanno abbastanza male, capitano», disse con voce calma. «Come? Tutti fuori combattimento?» «Veramente solo 2 in cuccetta, capitano, ma è stata la scorsa notte a sistemarli. Abbiamo dovuto tesare e alare ogni maledetto minuto. Ah, ho sentito, capitano, avevo voglia di venire fuori a dare una mano, ma sapete, assolutamente no, non devi. Per di più gli uomini di notte si mettono a dormire sui ponti, non fa bene». Ransom confermò. Ma non si poteva star dietro a degli uomini come ai bambini. Inoltre era difficile rimproverarli se cercavano quel po' di fresco e di aria che si poteva trovare in coperta. Per conto suo, ben inteso, la pensava diversamente. Era infatti un uomo ragionevole. Eppure non si poteva dire che gli altri non lo fossero. Gli ultimi giorni erano stati come la prova del fuoco di un giudizio di Dio. Era davvero impossibile pigliarsela con quel loro istinto semplice e imprudente, se approfittavano come meglio potevano dei momenti di sollievo, quando la notte recava quell'illusione di fresco ed il lume delle stelle ammiccava attraverso l'aria pesante, carica di umidità. Inoltre erano quasi tutti tanto deboli che per combinare qualcosa bisognava raccogliere ai bracci chiunque fosse appena in grado di camminare. No, era inutile pigliarsela con loro. Invece credevo davvero utilissimo il chinino. In esso credevo. In esso avevo fede. Il chinino avrebbe salvato gli uomini, la nave, spezzato l'incantesimo con il suo potere medicinale, reso trascurabile il passare dei giorni, effimero il fastidio delle condizioni atmosferiche e, come una polvere magica operante contro malefizi misteriosi, avrebbe protetto la prima traversata della mia prima nave contro le forze malvagie della bonaccia e della pestilenza. Lo consideravo più prezioso dell'oro e a differenza dell'oro, di cui non sembra esserci abbondanza da nessuna parte, la nave aveva una scorta più che sufficiente di chinino. Stesi la mano, sentendomi come chi sta per cogliere una panacea infallibile. Presi una bottiglia nuova e ne svolsi l'involucro, notando, nel fare ciò, che ambedue le estremità erano dissuggellate. Ma a quale scopo riferire tutti i rapidi passi della spaventosa scoperta? Avete già intuito la verità. C'era l'involucro, la bottiglia, e in questa la polvere, una polvere, ma che non era chinino. Una sola occhiata fu più che sufficiente. Ricordo che già nell'atto stesso di alzare la bottiglia, prima di aver scartato l'involucro, il peso dell'oggetto che reggevo per un attimo mi aveva fatto sospettare. Il chinino è leggero come piuma e i miei nervi dovevano aver raggiunto per l'esasperazione una straordinaria sensibilità. Lasciai che la bottiglia si spezzasse al suolo. Quella roba, qualunque cosa fosse, scricchiolava sotto la suola della scarpa. Afferrai la bottiglia successiva e poi la terza. Bastava il peso a dire come stavano le cose. Caddero l'una dopo l'altra, infrangendosi ai miei piedi, non perché le scagliassi a terra per la costernazione, ma perché mi scivolavano dalle dita, come se quella rivelazione fosse troppo superiore per le mie forze. È un fatto che la stessa violenza di certe scosse mentali aiuta a sopportarle, producendo temporaneamente una specie di insensibilità. Uscì intronato dalla camera, come se avesse ricevuto una mazzata sulla testa. Dall'altra parte della saletta, di là della tavola, Ransom mi fissava a bocca aperta con uno strofinaccio in mano. Non credo che avessi l'aspetto di un pazzo, molto probabilmente avrò avuto l'aria di chi va di tutta fretta perché istintivamente stavo salendo di corsa in coperta. Ecco un esempio di come l'allenamento continuo divenga istinto. In mare le difficoltà, i pericoli, i problemi di una nave vanno affrontati in coperta. A quel fatto reagivo per istinto, come se si trattasse di un fatto della natura. Il che potrebbe significare che per un momento rimasi privo della ragione. Certamente avevo perduto il mio equilibrio interiore, ero in preda all'impulso perché al piede della scala girai su me stesso e mi gettai verso la soglia della cabina del signor Burns. La stranezza del suo aspetto mise a freno il disordine della mia mente. Egli era seduto sulla cuccetta, col corpo che pareva smisuratamente lungo, col capo leggermente reclinato lateralmente, in un gesto di affettato compiacimento. Brandiva, nella mano tremante, in cima ad un braccio non più grosso di un robusto bastone da passeggio, un lucente paio di forbici, e sotto i miei occhi stessi stava cercando di piantarselo in gola. Ne fui inorridito fino a un certo punto, ma si trattò piuttosto di una specie di effetto secondario, in realtà non così forte da impedirmi di gridargli qualcosa come «Fermo! Santo cielo! Che cosa fate mai?» In realtà, abusando delle sue forze ritrovate, stava semplicemente cercando con mano malferma di tagliarsi la rossa barba cresciutagli folta. Aveva spiegato in grembo un grande asciugamano, su cui ad ogni colpo di forbici scendeva una pioggia di peli ispidi come pezzetti di filo di rame. Mi volse una faccia più grottesca di quanto possa immaginare la fantasia del sogno più assurdo, con una guancia tutta piena di barba fiammeggiante e l'altra nuda e incavata col baffone rosso intatto che spiccava solitario e terribile. E mentre egli stava a guardarmi come folgorato, con le forbici semi aperte tra le dita, gli urlai la mia scoperta malvagiamente, in 6 parole, senza commento. Udii il tintinnio delle forbici sfuggitegli di mano, notai il pericoloso protendersi di tutta la persona oltre l'orlo della cuccetta per riprenderle, e quindi, ritornando alla mia prima intenzione, proseguì la mia via fino in coperta. Thank you. Mi riempì gli occhi lo scintillio del mare. Era magnifico e deserto, monotono e inesorabile sotto la volta del cielo. Le vele, con le scotte allascate, penzolavano inerti. Le pieghe stesse delle loro superfici afflosciate non si muovevano più che se fossero state di granito scolpito. L'impeto con cui sopraggiunsi diede un lieve sussulto al timoniere. Un bozzello a riva inspiegabilmente cigolava. Che cosa poteva mai farlo cigolare? Era una nota sibilante, come d'uccello. A lungo fronteggiai un mondo vuoto, sommerso in un infinito silenzio attraverso cui, chissà per quale misterioso scopo, si riversava e spandeva il sole. Poi udì la voce di Ransom vicinissima al mio fianco. «Ho rimesso il signor Burns a letto, capitano». «Ah, sì». «Beh, capitano, si è alzato all'improvviso, ma quando ha mollato l'orlo della cuccetta è caduto. Ma non mi pare che deliri». «No», dissi sordamente, senza guardare Ransom. Attese un momento, poi, con cautela, come temesse di offendere, «Forse è bene che non perdiamo quella roba, capitano», disse. «La posso raccogliere quasi tutta e poi setacciare il vetro. Me ne occupo subito. Non farò ritardare la colazione neanche di 10 minuti». «Oh sì», dissi con amarezza. «La colazione può aspettare. Spazza bene tutto. E poi butta tutta quella roba maledetta fuori di bordo». Il silenzio tornò profondo. E quando mi volsi a guardare Ransom, l'intelligente, sereno Ransom era svanito dal mio fianco. Quell'intensa solitudine del mare agiva come veleno sul mio cervello. Nel volgere gli occhi alla nave, la scorgevo sotto il morboso aspetto di una tomba galleggiante. Chi non ha udito racconti di navi ritrovate alla deriva, per caso, con tutto l'equipaggio morto? Guardai il timoniere. Ebbi l'impulso di parlargli. Ed anzi la sua faccia si fece attenta, come se avesse intuito la mia intenzione. Ma in definitiva andai da basso, pensando di starmene per un po' solo con la mole dei miei affanni. Il signor Burns, però, attraverso la porta aperta, mi vide scendere e mi chiese burberamente: «Ebbene, capitano?» Entrai. «Non va affatto bene», dissi. Il signor Burns, reinstallato in cuccetta, nascondeva la guancia irsuta nel palmo della mano. «Quel dannato individuo mi ha portato via le forbici», furono le prime parole che disse. La tensione alla quale ero sottoposto era così grande che forse fu bene che il signor Burns avesse esordito con quella lagnanza. Sembrava seccatissimo e brontolò: «Ma mi crede matto o che cosa?» «Non credo, signor Burns», dissi io. In quel momento lo considerai un modello di padronanza di se stesso. Provai a tal proposito persino una certa ammirazione per quell'uomo che, a parte l'intensa materialità del suo residuo di barba, era quasi diventato uno spirito così incorporeo quanto mai fu possibile a un vivente. Notai il naso affilato in modo soprannaturale, le tempie profondamente incavate, e lo invidiai. Era ridotto in modo tale che probabilmente sarebbe morto presto. Invidiabile uomo, così vicino alla fine, mentre io dovevo reggere a un interno tumulto di dolorante vitalità, di dubbio, di confusione, di rimorso e ad un'indefinita riluttanza ad affrontare l'orrenda logica della situazione. Non potei trattenermi dal balbettare: «Mi sembra quasi di impazzire». Il signor Burns mi fissava spettrale, ma a parte ciò, meravigliosamente calmo. Ho sempre pensato che lui ci avrebbe giocato qualche brutto tiro, disse, sottolineando il lui. La cosa mi urtò, ma non avevo né intenzione, né coraggio, né energia per mettermi a discutere. Il mio genere di malattia era l'indifferenza, la paralisi progressiva di una prospettiva senza speranze. Perciò mi limitai a guardarlo. Il signor Burns venne fuori con altri discorsi. «Eh? Come? No? Non ci credete? Ebbene, come spiegate la faccenda? Come pensate che sia potuto succedere?» «Succedere?» ripetei sordamente. «Già, sì, per tutte le potenze infernali, come è potuto succedere?» Davvero, ripensandoci, risultava incomprensibile che le cose stessero a quel modo. Bottiglie vuotate, nuovamente riempite, rimesse nell'involucro e poi al loro posto. Una specie di complotto, un sinistro inganno, una cosa che somigliava a una subdola vendetta, ma vendetta di che? Oppure a un bieco scherzo? Il signor Burns, però, possedeva una sua teoria. Era semplice e la espresse solennemente con voce cavernosa. «Immagino che ad Haiphong ne avrà ricavato una quindicina di sterline.» «Signor Burns!» gridai. Annuì, muovendo il capo in maniera grottesca sopra le gambe sollevate, simili a manici di scopa in pigiama con enormi piedi nudi in cima. «Perché no? È roba che costa piuttosto cara in questa parte del mondo e nel Tonchino scarseggia assai. A lui, che cosa gliene importava? Non l'avete conosciuto. Io sì, e l'ho sfidato. Non aveva paura né di Dio, né del diavolo, né degli uomini, né del mare, né dei venti e nemmeno della propria coscienza. Ed io sono convinto che odiava tutti e tutto. Ma credo che avesse paura di morire. Sono convinto di essere stato l'unico a tenergli testa. L'ho affrontato nella cabina dove adesso state voi quando era malato e allora l'ho piegato. Credeva che stessi per torcergli il collo. Se ci fosse riuscito, saremmo rimasti a bordeggiare in bocca al monsone di Nord-Est per tutta la sua vita e anche dopo, per secoli dei secoli, a recitare la parte del vascello fantasma nel Mar della Cina. Ma perché poi rimettere a posto le bottiglie così? Cominciai a dire. E perché no? Perché buttarle via? Il loro posto è lì, fanno parte della cassetta medicinali. Ed erano avvolte nella carta, gridai. E beh, la carta era lì. Forza dell'abitudine, suppongo. E in quanto al fatto di riempirle, c'è sempre un mucchio di roba che ci mandano in pacchi di carta che dopo un po' si spacca. E poi, chi può dire? Immagino che non l'avete assaggiata, capitano. Ma naturalmente... «Ne siete sicuro?» «No», dissi, «non l'ho assaggiata. A quest'ora è tutta fuori bordo.» Alle mie spalle una voce piana, ben educata, disse «Io l'ho assaggiata. Pareva un intruglio dolciastro, vagamente salato, molto disgustoso.» Ransom, uscendo dalla dispensa, si era soffermato da un po' ad ascoltare, cosa più che scusabile. «Un brutto tiro», disse il signor Burns. L'ho sempre detto che ce l'avrebbe fatto. La mia indignazione era senza limiti. E quel dottore gentile, simpatico anche lui, l'unico uomo simpatico che io avessi mai conosciuto, invece di stare a scrivere quella lettera di avvertimento, squisita manifestazione di simpatia, ma perché non aveva fatto un controllo come si deve? Ma in realtà non era proprio giusto biasimare il dottore. Ogni cosa era in buon ordine e la cassetta dei medicinali è una faccenda ufficiale. Non c'era realmente nulla che potesse destare il minimo sospetto. La persona imperdonabile ero io. Non bisogna mai accettare nulla per scontato ad occhi chiusi. Il seme di un imperituro rimorso era caduto nel mio petto. «Sento che è tutta colpa mia», esclamai. «Mia e di nessun altro. Questo sento. Non mi perdonerò mai.» «È assurdo, capitano», disse il signor Burns ruvidamente, e per lo sforzo ricadde sfinito sul letto, chiuse gli occhi, ansimò. Quella faccenda, quell'odiosa scoperta aveva turbato anche lui. Nel voltarmi per andarmene, scorsi Ransom che mi guardava con espressione vacua. Si rendeva conto che cosa significasse tutto ciò, ma fece in modo di tirar fuori il suo pensoso, piacevole sorriso. Poi rientrò nella sua dispensa ed io mi precipitai nuovamente in coperta a vedere se ci fosse un po' di vento, appena un alito sotto il cielo, appena un rimescolio dell'aria, appena un segno di speranza. Mi accolse una funesta calma. Nulla era mutato, salvo che un altro uomo teneva la ruota. Sembrava malato. Era cascante in tutta la persona e pareva reggersi alle caviglie della ruota più che tenerle con pugno fermo. Gli dissi: «Non sei in condizione di stare qui». «Posso farcela, capitano», disse fievolmente. A dire il vero, non aveva da fare nulla. La nave non aveva abbrivio sufficiente per governare. Aveva la prua a ponente, con l'eterna coring visibile di poppa, ed alcuni isolotti, piccole chiazze nere nel grande splendore, che mi ballavano davanti agli occhi intorbidati. E, a parte quelle briciole di terra, non c'era una sola macchiolina in cielo, non una macchiolina sull'acqua, neanche l'ombra di un piroscafo, neanche un fil di fumo, neanche una sola vela, una sola imbarcazione, una sola traccia di movimento umano, un sol segno di vita, nulla. Il primo interrogativo era: che fare? Che si poteva fare? Per prima cosa, ovviamente, dirlo agli uomini. Lo feci quel giorno stesso. Non intendevo permettere che la notizia circolasse da sé. Li avrei affrontati. A tal fine vennero radunati sul cassero. Nell'attimo di uscire a parlare con loro, sentii in pieno quali terribili momenti può riservare la vita. Nessun reo confesso si sentì mai tanto schiacciato dal suo senso di colpa. Per tal motivo, forse, la mia faccia si fece dura e la mia voce recisa e fredda quando dichiarai loro che in fatto di medicinali non potevo più fare nulla per gli ammalati. Tutte le cure che era stato possibile dare sapevano che non erano mai mancate. Avrei ritenuto loro pieno diritto di farmi a pezzi. Il silenzio che seguì le mie parole fu quasi più duro da sopportare che il più violento scoppio d'ira. Conteneva un rimprovero di una profondità infinita che mi schiacciò, ma in realtà mi sbagliavo. Con voce che stentavo a mantenere ferma, proseguii: «Immagino, ragazzi, che avete capito quello che ho detto e sapete ciò che significa». Si udirono una o due voci. «Sì, capitano, abbiamo capito». Erano rimasti zitti semplicemente perché ritenevano di non essere chiamati a dire qualcosa. E quando li informai che intendevo far rotta su Singapore e che la migliore probabilità per la nave e per gli uomini riposava negli sforzi di tutti noi, malati e sani, per tirarla fuori di tutto ciò, ebbi il conforto di udire un sommesso mormorio di assenso e una voce che esclamò più forte: «Ci sarà pure una via d'uscita da questo dannato buco».